Le sorelle gemelle. Molto, molto tempo fa, in un villaggio, viveva un contadino con le sue figlie gemelle, Lina e Nancy. Le amava molto e giocava con loro, insegnava loro a studiare e faceva con loro cose di ogni genere. Anche la gente del villaggio amava le due ragazze educate e gentili. Ma quando crebbero un pochino di più, all'età di 10 anni circa, qualcosa cambiò. Ehi, Mari, vieni fuori a giocare. Oggi abbiamo trovato l'albero completamente nuovo con mele fresche nella foresta. Veramente? No, non posso venire. Perché no? Mia madre non me lo permette. Mari non va da nessuna parte. Lina e Nancy, state crescendo ora. Dovete smetterla con questa assurdità di giocare con i ragazzi. Le ragazze dovrebbero essere carine e imparare a cucire e pulire, non giocare nelle foreste e sporcarsi. Che cosa? Ma... Non è colpa vostra. Devo parlare con vostro padre. Nancy e Lina uscirono tristi e confuse. Andarono a casa di un'altra amica. Buongiorno, signora Jacob. Ciao, ragazze. Cosa vi porta qui? Volevamo chiedere a Sally se voleva venire nella foresta con noi. No, ho iniziato ad insegnarle a cucire e lavorare a maglia. Potrei insegnare anche a voi, se volete. Dovreste davvero imparare cose utili piuttosto che giocare nella foresta. State crescendo ora e le ragazze devono avere un bell'aspetto e imparare a cucire e a lavorare a maglia. Nancy e Lina ascoltarono e se ne andarono tristemente. Che cosa sta succedendo? Come mai all'improvviso tutti i nostri amici hanno smesso di giocare? Guarda là! Se i ragazzi possono ancora giocare, perché le ragazze non possono? Lina, Nancy, ci arrampichiamo sugli alberi nella foresta? Non adesso, Steven! Magari dopo! Nancy e Lina non vedevano l'ora di incontrare il padre e chiedergli perché all'improvviso tutte le loro amiche era stato detto di smettere di giocare. Papà! Ah, i miei due angeli! Com'è andata la vostra giornata? La cena è già pronta! Grazie, ragazze! Perché i miei angeli non sono giocosi e chiacchieroni come sempre? Cosa c'è che non va? Papà, perché le ragazze devono solo apparire carine, cucinare, pulire? O cucire e lavorare a maglia? Chi ve lo ha detto? Oggi, quando siamo uscite per chiamare le nostre amiche per andare nella foresta! Nancy e Lina raccontarono al loro padre tutto quello che era successo quel giorno. Jonathan ne fu sbalordito. Perché i ragazzi possono giocare e le ragazze no? Le ragazze possono fare tutto ciò che i ragazzi fanno, mia cara. Non c'è davvero differenza. Ma allora, perché solo le ragazze devono saper cucinare? Beh, io so cucinare, no? E io non sono una ragazza. Tutti devono sapere cose come cucinare, pulire, cucire, qualsiasi cosa utile che possano imparare. Non si tratta di ragazze o ragazzi. Alle ragazze è permesso imparare tutto? Tutto! Anche andare a cavallo? Anche andare a cavallo. Vuoi imparare? Sì! Così Jonathan insegnò ad insegnare alle ragazze ad andare a cavallo. Presto le ragazze divennero molto brave. Ma alla gente del villaggio non piacevano le ragazze a cavallo. Devi fermare le tue ragazze! Da cosa? Fanno cose che fanno i ragazzi. Non è corretto per le ragazze andare a cavallo e arrampicarsi sugli alberi. Devono imparare a cucinare, pulire, cucire e prendersi cura delle loro case. Le ragazze possono fare tutto ciò che vogliono. Non sono diverse dai ragazzi. Le mie figlie non fanno male, né disturbano nessuno e non le fermerò. Veramente? Le ragazze possono guadagnarsi da vivere, Jonathan? Dimmi! Perché no? Ho intenzione di insegnare alle mie ragazze esattamente questo quando saranno più grandi. Insegnerò loro non solo come coltivare il grano, ma mi aiuteranno anche a venderlo al mercato. Ragazze che fanno affari? Questo è atroce! Se insisterai, Jonathan, temo che dovremo mandare via te e la tua famiglia dal villaggio. Pensaci bene. Io alle mie ragazze non stiamo facendo niente di male, sindaco. In effetti, esorto tutti voi a dare alle vostre figlie la libertà di imparare ciò che vogliono. Perché le ragazze dovrebbero dipendere dai ragazzi. Le ragazze possono imparare a fare affari e gli uomini possono imparare a cucinare e prendersi cura della casa. Jonathan non sa di cosa parla. Ragazze che fanno affari e gli uomini che imparano a cucinare? Bene, se è quello che vuoi, a te e alle tue figlie non sarà più permesso di partecipare agli eventi del villaggio. Come desidera, signor sindaco, ma un giorno capirà che io ho ragione. Presto ci sarebbe stato un incontro sportivo nel villaggio, a cui avrebbero partecipato ragazzi di altri 20 villaggi. L'intero villaggio era pieno di attività, ma Jonathan e le sue figlie non poterono prendere parte ai preparativi. Lo stesso ministro Roland verrà per la cerimonia di apertura. Tutto quanto dovrà essere perfetto. Voglio vedere gli incontri sportivi, ma non c'è permesso. Non vi è permesso sul campo, ma potete stare fuori e guardare dal punto più alto del villaggio. Sì! Presto arrivò il giorno della manifestazione sportiva. Lina e Nancy salirono su un albero che si affacciava sugli spalti. Da lì potevano vedere l'intero villaggio. Videro il ministro Roland venire con suo figlio. Gareggiava anche lui. Mentre tutti si stavano godendo i giochi, Thunder, un criminale, rapì il figlio del ministro. E ora gli atleti di Sandhurst marceranno davanti al ministro. Nancy, cos'è quello? Perché quel carro sta andando così veloce? E si allontana così dallo stadio? Strano. Pensi che dovremmo dirlo al sindaco? Chi ci ascolterà, Nancy? E poi, quando lo diremo al capo, il carro sarà ormai troppo lontano, chissà dove. Vieni, seguiamolo. Quindi le due ragazze salirono sui loro cavalli e seguirono il carro. Il carro si fermò nel cuore della foresta, in una grotta. Le ragazze si nascosero dietro gli alberi a guardare. Non è il figlio del ministro Roland? Sì. È stato rapito. Dobbiamo dirlo agli abitanti del villaggio. Lina, perché non vai a dirlo a papà e al sindaco? Mentre io tengo d'occhio la caverna da qui, sarai al sicuro. Salirò su quell'albero e rimarrò nascosta tra i rami. Ora vai e porta i cavalli con te. Stai attenta. Lina tornò al villaggio e cercò di dire tutto al sindaco. Ma il sindaco non la volle ascoltare. Tu e tua sorella non siete ammesse qui. Ricordi? Ma ho qualcosa di molto importante da dirti, sindaco. Lasciami in pace, bambina. Dato che il sindaco non volle ascoltarla, Lina corse dal ministro Roland e gli disse tutto. Il ministro e gli abitanti del villaggio si precipitarono nella foresta, nel luogo in cui Lina li portò, e Nancy disse loro quello che aveva visto. Tengono tuo figlio in quella grotta e stanno caricando cose pesanti. Penso che se ne andranno presto. Oh no, non lo faranno. Gli abitanti del villaggio e le guardie attaccarono la caverna, catturarono i rapitori e salvarono il figlio del ministro, Roland. Sono così orgoglioso di voi, ragazze. Mio figlio è al sicuro solo grazie alle tue figlie, Jonathan. Sindaco, è un bene che abbiate ragazze così indipendenti nel vostro villaggio. Non io, ministro. Jonathan e le sue figlie ci hanno insegnato una lezione preziosa. Jonathan, avevi ragione. Le ragazze possono fare tutto ciò che possono fare i ragazzi e devono poterlo fare. Ragazze o ragazzi, Nessuno è più forte o più debole dell'altro. Entrambi possono fare qualsiasi cosa. I ragazzi possono cucinare, le ragazze possono andare a cavallo o qualsiasi altra cosa, purché sia utile.